Oh no, il campionato crucco non si può guardare, piuttosto l'algoritmo del campionato di bocce. Dai, dai, smettiamola, dai. Dobbiamo convocare la banda. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Las dos primeras jornadas en la reanudación de Primera División de la Liga Santander. Hay un partido que se juega el domingo a la 1:00 p.m. Ese fin de semana iba a ser un semana frío, que también es verdad que si las predicciones de la agencia estatal fuesen cambiando, pues ese horario de la 1 cambiaría a las 5:00 p.m, ¿no? Si se daban una serie de circunstancias, nosotros podríamos ser el único equipo de fútbol del mundo donde los aficionados de la Unión Deportiva de Las Palmas pudiesen asistir al Estadio Gran Canaria. There will be a day when we really have all together the time again to celebrate together, and we will do that. This is Liverpool. Other people can say, how can you celebrate your championship from last year, next year in March? Who cares? Buon pomeriggio a tutti, Valerio Bernardi oggi oltre a Gianmarco Ferronato in regia, Claudia Schiattone in redazione, Lorenzo Nespoli in assistenza, questa la squadra. Filippo Maria Ricci, buongiorno. Buon pomeriggio. Ciao, sono curioso di fare un giro all'estero anche per capire questa ripresa di tutti i convocati dopo la pausa di ieri, se gli spagnoli hanno piani B e C. No, come no? perché Tebas ha sempre detto che poi quando se le cose andranno male ci penseremo. Voglio dire, piani B, è chiaro che diciamo dovrebbe di fronte a una catastrofe, poi vabbè, il calcio si ferma se c'è il ritorno del coronavirus e così. Però insomma, algoritmi, congelamenti della classifica, no. Playoff, playout, no, niente. Molto bene. Ciao Pierluigi Pa. Fa parte di una strategia, però. Sì, no, ma cioè lui la strategia dell'ottimismo, come dire. No, noi lui dall'inizio, quando abbiamo cominciato a parlare di ritorno, no, la domanda era, dice "No, però dice cioè, qualcuno pensa di non faccio fatica a sentirti, ma ci riproviamo. Il collegamento non perfetto, ma ci riproviamo. Intanto saluto Pierluigi Pardo. Ciao Pier. Ciao. Hai pensato a Radio Tweet? Beh, Radio Twitter non può che essere legato al valore dello sport, no? In questi giorni ci siamo interrogati giustamente, legittimamente, sul fatto di ripartire, di non ripartire, dei rischi, delle opportunità, e come ben sai io non ho nessuna certezza assoluta. Poi vedo quello che è successo con il Mönchengladbach, con Thuram, quello che succede sui campi di allenamento del Liverpool, della Roma, i posti, i tweet, e allora capisco per l'ennesima volta che lo sport è anche un meraviglioso strumento di trasmissione di idee che possono essere positive o negative. In questo caso ovviamente sono idee di solidarietà, di lotta al razzismo, di civiltà, e quindi se c'era un ulteriore bisogno di ricordarci l'importanza dello sport e quindi anche l'importanza della ripartenza, ecco, credo che queste ultime ore, certo, questi fatti incredibili che arrivano dall'America e queste fantastiche dimostrazioni di solidarietà che arrivano in tutto il mondo ce l'ho con te. Sì, poi torniamo a parlare di questi argomenti più tardi nel Bartur, se volete potete intervenire anche su questo. WhatsApp vocali 349-238-6666. Ha ragione Pierluigi Pardo nel sottolineare tutto questo, perché dallo sport sono venuti, sport che spesso è stato refrattario a prese di posizione su grandi temi, specialmente sociali, politici. In alcuni casi lo sport ha un po' nascosto la testa sotto la sabbia, mentre ora le reazioni che arrivano sono direi splendide. Stiamo provando a ricollegarci con Filippo Maria Ricci, che c'è tornato, e coinvolgo anche lui su questo argomento. Filippo, lo sport spagnolo, quanto diceva Pierluigi Pardo giustamente nel suo radio tweet, insomma, grandi testimonianze del mondo dello sport, di solidarietà, per quello che sta succedendo negli Stati Uniti. In Spagna come hai sentito il tema? Molto molto sentito, ci sono, insomma, è una cosa, prima cosa, si sente bene? È sì, buona la connessione? Sì, sì, ci siamo. E, no, è un tema che sta molto a cuore, insomma, che è stato recepito in maniera molto molto forte e non, secondo me non poteva essere altrimenti, insomma, ecco, questo è il diciamo, mi stupirei del contrario, mettiamola così. Ho visto una copertina l'altro giorno con Black Lives Matter in traduzione spagnola, non mi ricordo su quale quotidiano sportivo spagnolo. Su As. Devo dire che, ecco, da questo punto di vista, senza voler assolutamente insegnare il mestiere ai nostri giornalisti, perché insomma fanno tutti i giorni dei giornali e conoscono quel mondo molto meglio di me, però, cioè, ancora una volta la Spagna ha questo coraggio un po' di più di osare, no? Con delle copertine monografiche. I giornali italiani, tutti, quelli politici e quelli sportivi, sono pieni giustamente di testimonianze, quindi non c'è assolutamente nessun intento da parte di nessuno di censura, è proprio un fatto di scelta, secondo me, editoriale, e secondo me è uno stimolo. Sì, certo. non ho la risposta, non so dirti se sia giusto o sbagliato, sicuramente è molto bello, insomma, dedicare una prima pagina a un tema così, così grande e così importante, ma pagina 2 parli anche del Real Madrid, ci mancherebbe altro. Vabbè, fa parte della vita, no? Fa parte della vita. Assolutamente. Parli di questo e del Real Madrid, però insomma. Però la prima pagina ha sempre un impatto forte, sì, sì, e in sì, questo sì, sono d'accordissimo, cioè meravigliosa scelta. Oggi la Gazzetta fa un'altra copertina, l'altra copertina, no? Su tutto il tema, ma anche quello dello sport, cioè non è veramente, non c'è nessuna, però è uno stimolo, ecco, secondo me è uno stimolo qualche volta a usare forse un po' di più. Magari. E poi qua si nota di più perché sono monotematiche spesso, no? Le prime pagine dei quotidiani sportivi, diciamo, non, da noi comunque si tende ad avere più notizie in prima pagina, è uno stile anche proprio giornalistico diverso, qua c'è la monografia spesso e usarla così è sicuramente un bel gesto. Un bel segnale. Allora, Pierluigi, abbiamo scoperto con Filippo Maria Ricci che in Spagna non hanno il piano B e il piano C. Il calendario è noto da qualche giorno, ci sono delle partite collocate a mezzogiorno e all'1. Ovviamente i giocatori saranno imbestialiti. Due partite all'1. Sono imbestialiti, no? No, però aspetta. Succede questo, che allora, qua per me hanno scelto la strada, diciamo, meteorologica. Cioè hanno controllato le temperature medie e le previsioni per quel weekend, quindi hanno messo una partita all'1 a Barcellona e una a Bilbao. Bilbao dovrebbe andare bene sempre, perché comunque raramente fa veramente quel caldo assurdo che ci può essere in altre regioni. Barcellona mi ha sorpreso di più, però loro sono pronti a spostarla, perché essendo una partita senza pubblico, dice se il giorno prima, due giorni prima, vediamo che non, diciamo, le temperature cambiano, ci sono 40 salgono, gradi, esatto, si sposta più tardi. Per me va bene. No, ma va benissimo. Non ci sono regole assolute, siamo in emergenza. E mi sembra che in Spagna Tebas abbia una sua, non so se è perfetto Tebas, però insomma una sua forza propulsiva che non sempre nella Lega di Serie A si riesce a vedere, perché c'è un approccio molto più collegiale, e tutte le volte che c'è un approccio collegiale possono essere anche più polemiche, un po' più di lentezza per prendere le decisioni. Quanto all'algoritmo, insomma, ragazzi, è chiaro che l'algoritmo è abbastanza ridere. Fa forse anche piano Z, cioè, sinceramente il punto vero è che noi abbiamo una necessità anche formale di consegnare all'UEFA delle classifiche delle squadre che il prossimo anno facciano le coppe europee, insomma tutto il resto, quindi ci si deve preparare a ogni evenienza, ma insomma mi pare che ci sia prima il piano A, poi il piano B, poi il piano C. Si tratta di definire le regole. Proviamo a giocare a pallone. Esatto, con grande ottimismo. Io sono del partito dell'ottimismo, per cui piano B e piano C è giusto scriverli formalmente, come si fa la casellina del regolamento. Sarebbe come dire non giochiamo il mondiale, perché se c'è la parità assoluta ci può essere la monetina, ma si tratta di stabilire un regolamento, no? Quello che, ripeto, sta scritto nelle caselline con fatti in campo neutro, secondo me. Una cosa importante per me, Carlo, e quando tu mi hai chiesto prima, ti ho detto, io dico no, qua non ci sono piani B o piani C, nel senso è anche una questione di comunicazione. Ovviamente ce li hanno anche qui, non li hanno mai comunicati, al momento non è pertinente. Qua dice: noi siamo organizzati, ci stiamo preparando, seguiamo le regole in maniera diciamo, il più preciso possibile. Però adesso pensiamo positivo e pensiamo a giocare. Dopodiché, se non si potrà giocare perché il paese purtroppo ricade, diciamo, nelle mani del Covid-19, allora poi dopo sarà l'ultimo dei problemi, capito? Una soluzione si trova. Sì, appunto, tiri su una monetina perché la UEFA vuole una classifica e decidi no, ci si ferma. O la giochi alla PlayStation, ma a quel punto saresti talmente depresso che qualunque soluzione chi se ne frega. Per me il problema è che non so perché è venuta fuori questa cosa dell'algoritmo, non doveva mai venire fuori, cioè non so come dire. Sono d'accordo, c'è un eccesso che a noi ci piace chiacchierare, ragazzi, dai, questa è la verità. Vabbè, non è che in Spagna stanno zitti, la charla piace anche agli spagnoli, però insomma noi abbiamo proprio questa passione del fare il dibattito su tutto, nel dire che tutto va male. Io l'algoritmo non mi piace, ma chi è che gli piace un algoritmo? Neanche all'algoritmo stesso gli piace l'algoritmo. Cioè l'algoritmo quando ci guarda allo specchio dice... Esatto, l'algoritmo quando si guarda allo specchio dice tu chi sei? L'algoritmo, non mi piace. Cioè, non si piace neanche da solo l'algoritmo, non è quello. Però cioè, non mi sembra che sia anche in termini probabilistici che possa avere un peso. No, è anche scarsamente interessante, se vogliamo dire. È che si sta provando, e tutti insieme, veramente tutti insieme, il governo della politica, il governo centrale, le istituzioni, i calciatori, tutti hanno fatto un loro sforzo, no? Tutti hanno un loro sforzo, tutti rinunciano a qualcosa, non è il piano ideale per nessuno, non lo è per i tifosi che saranno costretti a starsene a casa, sono i più penalizzati di tutti, anche se pure lì comincio a vedere che insomma non diciamo niente, ecco. No, ma poi tra l'altro... Anche lì c'è l'esempio spagnolo. L'abbiamo sentito in copertina, no? Miguel Ángel Ramírez, perché incrociamo le dita. Perché Las Palmas Canarie potrebbe essere l'avamposto mondiale, Filippo, di uno sport quasi normale. Sì, sabato 13 Las Palmas Girona, partitone che dovrebbe, potrebbe giocarsi a porte aperte. Però perché? Perché c'è ovviamente parzialmente aperte al 30%. Perché? Perché anche lì si rispettano le regole. Allora, lunedì con ogni probabilità Gran Canaria entra in fase 3. La fase 3 prevede l'apertura di cinema, teatri e quant'altro, concerti e quindi anche degli impianti sportivi con il 30% della capienza. Lui dice, allora eccoci qua, noi siamo pronti. Non ha sparato, ovviamente, lui ha sparato sulla radio del club, però ha delle basi solide perché comunque è in contatto con la Liga, con le autorità locali, con le autorità sanitarie nazionali. E io spero che, è così, del resto le Canarie hanno avuto, l'ho scritto l'altro giorno, adesso in questo momento non lo ricordo a memoria il dato, ma una percentuale molto molto limitata, tanto nei decessi come nei contagi, ed è giusto, se si può, che si giochi a porte aperte, insomma. Anche lì è altro ennesimo esempio, no, di quella continua discussione fra il nulla e il poco, il meglio piuttosto oppure no, perché pure lì è chiaro che se io devo aprire lo stadio al 30% dei tifosi, devo impedire ai ragazzi delle curve e delle tribune di potersi abbracciare se c'è un gol, uno dice che calcio è? No, non è calcio. Però allora è meglio quello quello con dei posti distanziati oppure che nessuno vada allo stadio? Io non lo so, io penso che il dibattito sia aperto, le soluzioni ottimali in questa vicenda non ci sono mai, non ce ne sono mai state, perché chiaramente è una pandemia. Però sono piccole conquiste, io sono d'accordo, cioè alla fine secondo me... Meglio che niente. Meglio che niente, per dirti, gli abbonati, il principio degli abbonati, dare agli abbonati la possibilità di vedere la partita rispettando la partita con la mascherina, fa schifo, certo fa schifo la partita con la mascherina, perché noi... amiamo essere liberi, però è meglio la partita con la mascherina o vedersela in televisione? Per me è meglio andare allo stadio, te lo dicono gli uomini di televisione. Ma no, ma è chiaro stadio, no? Che è un po' quello, quindi, che hai detto Sergio Conceição, ieri hai visto il paragone, no? L'insalata scondita. Torniamo al discorso di prima, cioè possiamo dividerci e giocare a dividerci su qualsiasi dettaglio. Perché è chiaro che questa soluzione non potrà far felice tutti, ma non solo, non farà felice nessuno, perché questa soluzione non fa felice nessuno. Le televisioni rinunciano sicuramente agli orari originari, i tifosi hanno il problema di non vedere le partite, i calciatori giocano in un periodo in cui sono andati in vacanza, quello può essere sfavorito. Cioè è chiaro che è una soluzione lontanissima dall'ottimale, però che facciamo? Però guarda, secondo che è successo, me sta venendo fuori il buon senso, poi che Dio ce la mandi buona, perché tanto la cosa fondamentale è capire se il virus c'è o non c'è. Certo. Io ho visto una manifestazione, senza entrare nel merito, voglio dire, dal punto di vista proprio strettamente epidemiologico, ti si accappona la pelle, perché voglio sperare che lì nessuno fosse positivo, no, ricominciamo, no? Quindi poteva essere di quel partito, può essere di un altro, no, ma si tratta, detto, però, Luigi, no, si tratta, dico, c'era un insieme di persone che veramente li vedi e dici, ma si tratta di usare, di seguire, le normative, soprattutto il buon senso. È una cosa che diceva giustamente Filippo, vuole fare Las Palmas, tra l'altro, sì, certo, consentirebbe l'ingresso sui 33.000 posti allo stadio ai suoi 10.000 abbonati, quindi gli abbonati potrebbero vedere la partita. Poi, se non c'è voglia di andare, distanziati, non mascherine, abbracciarsi, bla bla bla, allora, vabbè, non ci vanno. Però intanto è comunque un segnale, hai visto? Ma infatti se ne sta parlando per la finale di FA Cup, se ne è parlato per il ritorno di City Real Madrid, insomma, vedremo, cioè, è chiaro che piano piano, ma è giusto, perché sono piccoli passi verso la normalità. Che speriamo di ottenere, perché vuol dire, l'obiettivo qual è? È l'obiettivo di tutti, è l'obiettivo di tutti. D'altra parte, nessuno vuole le porte vuote. Anche qua se ne ha parlato l'altro giorno Gravina, no? Ha detto il sogno è quello, no? A luglio di permettere comunque. Quello che la UEFA ci sta pensando. Noi come Gazzetta non abbiamo trovato conferme, però in Spagna hanno parlato anche di UEFA che ci sta pensando per l'eventuale Final Four o Final Eight, adesso il 17, no? Ci toglieremo i dubbi e sapremo come saranno le coppe europee. Però tutti ci stanno pensando, perché è normale pensarci, ed è normale pensare positivo. Per quello io dico, preferisco pensare a uno stadio al 30% piuttosto che a un algoritmo, capito? guarda, a uno stadio pure vuoto piuttosto che un algoritmo, sai, per, sì, sei, esatto, per quello, esatto, no? Però secondo me il bravo legislatore, cioè il bravo manager, è uno che ti fa il piano A, il piano B, il piano C, il piano fino al piano Z. E non, è che e non è che se pianifica il piano Z è una persona cattiva, il piano Z gli fa schifo pure a lui, fa schifo a tutti il piano Z. No, non lo devi solo tirare fuori, devi dire guarda, io sono pronto. A me i playoff piacciono, lo sai, a me i playoff non piacciono perché mi sembra che dal punto di vista del merito sportivo siano una roba veramente a stagione in corso un po' ingiusta e poi molto arbitraria. Quanti giocano? 2, 4, 6, 8, sapete come la penso sui playoff? Certo, no, certo. Sarebbe divertente da un certo punto di vista. Ma se lo stabilisce all'inizio, no? Se lo stabilisce all'inizio, quindi, dici, vediamo come va con i playoff. Però pure lì, quello lì è un piano B, è un piano C che non puoi escludere del tutto, perché altrimenti ti rassegni. Perché comunque stiamo parlando di una situazione incredibilmente eccezionale, cioè, ma vagli a chiedere ai francesi che hanno preso la decisione affrettata e adesso stanno guardando gli altri che tornano in campo. Quindi bisogna avere anche tranquillità, una situazione eccezionale con misure eccezionali, sperando che siano le più normali possibili. Senti, Filippo, c'è altro tema che rimbalza dalla Spagna di oggi con la querella tra Gasperini e il Valencia che non si placa. Marca ha riportato questa, diciamo, il Valencia non è contento, ne ha parlato anche, diciamo, il ministro locale della sanità. È chiaro, le parole di Gasperini sono rimbalzate per quello che sono, insomma, sicuramente viaggiare è stato un rischio e è normale che qua. E dopodiché, detto questo, io ricordo sempre che a Valencia c'è stato il primo caso e anche il primo decesso in tutta la Spagna il 13 di febbraio, quindi una settimana prima del primo caso in Italia, per cui loro avevano il virus ben prima di noi, non se ne sono accorti, quindi non è che, diciamo, possono venire a dare grandi lezioni. Dopodiché le parole di Gasperini ovviamente fanno effetto, hanno una certa rilevanza e quindi sì, la polemica non si spegne, sì, hanno interpellato la UEFA, ma insomma non è che vogliono cambiare il risultato a tavolino, niente, è più una questione di imprudenza, insomma. Sì, di totale imprudenza, ma mi domando anche per quale ragione puoi rendere pubblico a giochi fatti tutto quello scatenando. Insomma, non vedo sinceramente l'opportunità. Un errore di comunicazione, appunto. Cioè, se io chiuderei con d'accordo, un errore, no? forse dovuto essenzialmente anche alla forma di onestà e di sincerità, perché insomma certamente non è stata una trovata propizia, ecco, sul piano della comunicazione. Abbastanza un autogol comunicativo, dai, diciamoci la verità. Certo. Abbiamo sentito prima anche Klopp allargando lo sguardo da altre parti, cioè in Inghilterra in questo caso. Klopp ha detto due cose che sono abbastanza interessanti. La prima è controtendenza rispetto a tutti gli altri, i giocatori, ha detto: i miei giocatori li ho trovati benissimo, anche meglio dell'anno scorso quando abbiamo iniziato la preparazione, si sono riposati, ci danno il tempo che serve per allenarci e credo che sia un tempo congruo, quindi molto in controtendenza rispetto a chi dice ma come due settimane, tre settimane di lavoro non saremo pronti, infortuni, bla bla bla. Quindi questo primo punto. Il secondo, Klopp dice, beh, vinciamo sto scudetto che è praticamente nostro, poi è chiaro che non si parla di parate eccetera, la faremo, ma la faremo a suo tempo quando sarà il momento, non sminuendo in questo caso, Filippo, mi pare comunque la gioia e la felicità dei tifosi del Liverpool che aspettano da 30 anni questo momento. No, perché lui dice no, non si può festeggiare a marzo un titolo conquistato a giugno o luglio, quando sarà, e ha ragione, insomma, bisogna trovare anche lì un modo per cercare di fare le cose al meglio, per quello che ci offrono le condizioni, il momento. Sull'altro punto interessante, perché ieri mentre scrivevo ripensavo a una nostra chiacchierata qua tutti convocati, quando tu mi chiamavi per dire quanto erano in disaccordo la Liga e la Federazione, no? Ti ricordi che erano sempre in guerra. Sì. Poi è arrivata questa presidente Irene Lozano del CSD, il Consiglio Superiore delle Porte, e li ha portati al tavolo. Sì, è un mio idolo lei. Li ha fatti unire ed è stata una cosa clamorosa. Adesso oggi c'è un piccolo episodio che hanno un po' ricominciato a litigare, però fino a ieri, per esempio, il ministro della Sanità si è riunito con quattro capitani di quattro squadre della Liga e a me è sembrata una cosa, di nuovo organizzata dal CSD, una cosa molto molto interessante, e lì per esempio Piquet, che l'aveva già detto a Tebas, ha fatto, diciamo, si è lamentato sul fatto che i giorni di allenamento secondo lui sono troppo pochi, quindi però devo dire, ecco, quando a me è parso assolutamente diciamo encomiabile, molto molto interessante il fatto che a livello politico sia stata imposta l'unità nazionale, e questo è importantissimo, questo è una cosa che fa bene al calcio, infatti si vede, remano tutti nella stessa direzione. Ma la signora Lozano, cioè, la vorrei in prestito in Italia, veramente, idolo assoluto. Anche, io ti dico, anche te, il motore propulsivo. Però, posso dire una cosa adesso? Cioè, non, poi abbiamo raccontato posizioni diverse, anche posizioni di comodo, polemiche, cioè, poi alla fine adesso non buttiamoci giù sempre, guarda, no. Che anche in Italia alla fine le carte bollate, però Piero, c'era un contrasto che era altro che quello esatto, si partiva da una frattura insanabile, capito? In questo senso io lo porto come esempio, perché era un esempio molto negativo ed è diventato un esempio molto positivo, solo per quello. Ma da noi, io adesso dopo andrò anche a trovare Gravina, voglio insomma capire da lui, farmi raccontare qualcosa di più di queste settimane, che sono state, immagino, settimane abbastanza complesse dal suo punto di vista, dal punto di vista di tutti. Mi pare che anche qui ci fossero posizioni molto diverse, perché insomma, pensate al ministro Spadafora, no? Alle prime dichiarazioni, e poi come, devo dire, candidamente e secondo me in maniera apprezzabile c'è stata alla fine un'unità tra tutte le forze. Poi è ovvio che siamo sempre su chi va là, nel senso che ma sono io che lo pretendo, cioè io che spero che si giochi. Spero pure che se c'è un problema ci si fermi, cioè, non so come dirti, siamo tutti sulla stessa barca, continuamente sulla stessa barca, no, ma comunque a prenderci con gli spiragli che il virus ci lascia, come in qualsiasi altra attività della vita, è chiaro che poi qualche convenienza c'è, cioè, magari qualcuno che si è fatto due conti e non gli conveniva tanto, alla fine però mi sembra che il risultato anche da noi sia un risultato di buon senso. Sì, assolutamente. Ma come la signora Lozano è stata la grande protagonista della Pax spagnola, Gravina è stato il grande vincitore qui in Italia, ma gliel'abbiamo detto anche l'altro giorno e oggi non c'è, però lo ripetiamo ogni giorno, è stato bravissimo a tenere la barra dritta, è stato il vincitore del momento, se di vincitori vogliamo parlare. Fabio da Palermo, buongiorno. Buongiorno. Dica. Io intanto vi ringrazio per avermi messo in comunicazione. Poi volevo dire, ciò che mi chiedo da qualche tempo a questa parte, essendo un appassionato di calcio di tutti i livelli, Italia, Spagna, Francia, Inghilterra, tutto, mi chiedo, ma non esiste un regolamento FIFA e un regolamento nazionale per quanto riguarda la cristallizzazione delle classifiche al momento dell'interruzione? Perché io temo che se questa ripresa sarà una ripresa che durerà poco, purtroppo, cioè è chiaro che io lo dico da una regione che è stata tra le meno colpite da quello che è successo. Ma mi rendo conto del pericolo enorme che c'è nel ricreare degli assembramenti di questo genere, a meno che non ci abbiano preso in giro da sempre. Beh, assembramenti non credo, dato che si giocherà a porte chiuse, assembramenti in campo di 11 con i giocatori contro altri 11, quello sarà l'unico. Ma poi, come dice sempre, lo stadio è il posto più sicuro che c'è. Sì. No, ma dico poi, sinceramente, insomma, non è soltanto Zangrillo, tutte le voci che ci arrivano, fortunatamente in questi giorni, dai luoghi in prima linea, no? Da quelli che giustamente abbiamo definito eroi, angeli, che hanno curato queste persone, ci raccontano di una situazione completamente diversa. Io c'era il primario di Genova che raccontava il fatto che insomma c'è stato un piccolo cluster in Liguria un paio di giorni fa in una RSA, e però insomma le condizioni di molte delle persone che sono arrivate lì, persone molto anziane, sono completamente diverse fortunatamente rispetto a quelle di qualche mese fa. Quindi è una situazione sulla quale ci vuole una grande capacità di adattamento, una grande capacità di dialogo e uno spirito costruttivo. Lo stiamo dimostrando. E poi ha ragione, insomma, l'ascoltatore ha ragione. È chiaro che delle regole certe aiuterebbero, però è pure vero che è una situazione talmente assurda che non è che puoi prevedere. No, beh, è ovvio. Nemmeno la FIFA può prevedere, ma giusto, che succede in caso di pandemia. Poi bisogna evitare che ci siano logiche di convenienza, insomma, dai. Sì, no, ma è giusto andare incontro a come suasion, dicono gli americani, no? Esatto. Cioè, facciamo un patto da gentiluomini, indipendentemente da quello che può essere l'interesse di una squadra piuttosto che di un'altra. Proviamo, visto che abbiamo scoperto, ci hanno raccontato i diretti interessati, che c'è un interesse di competitività in Italia come negli altri paesi a chiudere la stagione, e poi pian piano riprendiamoci le cose. Io sogno che lo stadio si riapra prima della fine della stagione. Sì, ma lo sognamo tutti insieme. Anche la UEFA è stata indicazioni precise, no? sulla conclusione dei campionati. La UEFA è stata precisa. Insomma, intanto detto, cominciamo, poi da qui a un mese vediamo come butta. Bisogna provare a chiuderli. Poi se non ci si riesce, si vedrà. Insomma, c'è sempre tempo a decidere le regole per la chiusura del campionato. Però sì, ecco, io in questo senso dico: no, prima lo proviamo a chiuderlo, poi dopo una soluzione si trova, esatto, con la tristezza nel cuore, ovviamente. Senti, un'ultima cosa a proposito di Noia, Filippo: quando finisce la tiritera di Arthur e la Juventus? Ancora ci vuole un po', secondo me. Sì, guarda, io che barba che noia. Voglio vedere che succede nelle prime due giornate. Barcellona gioca, mi sembra, 13-17 o 13-16, adesso non ricordo bene. E vediamo se gioca, se non gioca. Guarda, io dico una cosa, questo è un affare che si deve fare. Serve al Barcellona e serve alla Juve. L'unico che non lo sa è Arthur. Il matrimonio che sta da fare, ma non è che lo vogliono mandare a giocare alla Cayenne. Esatto, con tutto, non facciamo nomi, con tutto rispetto, non è che fanno una squadretta, però lui non l'ha ancora capito, e questo è il grande problema di questa, se no sarebbe già l'affare è già chiuso, però lui non ci sente, gli piace stare a Barcellona, c'ha una fidanzata catalana che vuole stare lì e non gli sembra, insomma, vuole rimanere a Barcellona. No, quando lo convinceranno l'affare finirà, però per me e magari per convincerlo, magari non so, non gli fanno giocare due partite, non so, potrà cambiare pensiero, però ci vuole ancora un po' di tempo. Vabbè, allora attrezziamoci con la pazienza che serve. Grazie Filippo, a presto. Ti a abbraccio. Voi ciao. Saluta anche a te Pierluigi, alla prossima, ciao. Domani ci fermiamo per la borsa e poi torno al Bar Tour. Ragazzi, io sono del partito che meglio piuttosto che niente, quindi meglio uno stadio al 30% dove almeno quando c'è un gol il calciatore può esultare con i suoi tifosi, che niente. Tutti convocati anche su WhatsApp. Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Tutti convocati. As the snow flies on a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto. And his mama cries. Cause if there's one thing she don't need is another hungry mouth to feed in the ghetto. Beh, come avete capito, e come al solito musicalmente siamo al top, anche perché dopo una settimana da congiunti disgiunti, dopo il martedì del 2 giugno, li abbiamo ricongiunti Mario Bartoletti e Leo Turrini. Ciao ragazzi! Buongiorno, bella scelta devo dire da parte del direttore artistico, quasi mi commuovo a sentire questa canzone e come ho sentito dire prima sono argomenti che non vanno mai, mai, mai rimossi. Mai, mai, mai trascurati. Il nostro sport deve essere all'avanguardia in questo tentativo di riallineare ogni forma di civiltà quando la si perde di vista. Ma mi sembra ci stiano riuscendo dopo il Blackout Tuesday, no? Con gli schermi neri che hanno aderito moltissimi sportivi, le foto di Inter, Milan, Roma, Juventus, Torino, tante squadre, nella posa che rese celebre l'ormai ex giocatore di football Kaepernick. Beh, mi piace, Leo, il modo in cui lo sport globale sta partecipando a questo drammatico momento americano. Sì, intanto saluto Marino che è tornato dopo aver festeggiato le congiunte, tu ricorderai che te l'ho lasciato solo. Sì, sì, fai bene a ricordarlo. No, sono anche stupito che oggi che sono cadute le barriere tra le regioni, gente sia in onda, perché immaginavo che con tutte le amichette che ha tra il Friuli, il Molise, la Basilicata, fosse costretto ad assentarsi, ma... Guarda, la mia amichetta dell'altra settimana si chiama Graziano, pensa un po', c'ha anche la barba e anche pure anche una certa età. Volevo però dare anche una risposta seria a quello che ha detto Carlo, visto che abbiamo parlato finalmente a proposito di virus, di barriere che cadono. Beh, insomma, quello che stiamo vedendo dagli Stati Uniti e la manifestazione di partecipazione, di solidarietà che viene da tanti personaggi del mondo dello sport è l'indicazione appunto di quante barriere ancora ci siano da rimuovere, da battere per un mondo migliore, come canta il mio amico Vasco. Noi siamo sempre qui che ci diciamo da settimane, dopo questa pandemia ci ritroveremo tutti più buoni, no? Avremo capito la lezione. Beh, per quello che abbiamo visto, stiamo vedendo dagli Stati Uniti, i segnali non sono così incoraggianti. Comunque, teniamo duro. Volevo dirvi che ci sono di nuovo le code sulla Piero Fortale. Questa è una meravigliosa notizia. E c'è un dibattito accesissimo qui in coda, perché una signora sta cercando di convincermi che Pardo, il tuo socio, sì, un articolo apparso ieri sulla Gazzetta dello Sport, a proposito della ripartenza del campionato di calcio, ha citato Dostoevskij, no? Non so se ci avete fatto caso. E questa signora, giustamente, che è una professoressa di letteratura orientale, è sicura che Pardo si riferisse al Dostoevskij, centrocampista della Dinamo Kiev, ai tempi di Lobanovskij. Quindi qui si apre un dibattito su sport e letteratura, campo nel quale Marino, il maestro assoluto, io gli cedo la parola, felice di averlo ritrovato dopo le sue visite alle congiunte. Prego, anch'io non ricordavo dove giocava Dostoevskij, là si è soltanto dire da quel che ho capito di quella bella canzone che è stata scelta dal direttore artistico, che è la storia di un ragazzo di colore che nasce nel ghetto di Chicago, che ha una vita particolare e che un brutto giorno viene ucciso, ma in quello stesso giorno nel ghetto di Chicago nasce un altro bambino di colore, ecco. Quel bambino deve essere la nostra speranza e lo sport deve essere il carrier perché questa speranza si concretizzi. Certamente lo sport non è immune dal razzismo, ma nel 99% dei casi questo razzismo si manifesta da parte di chi assiste allo sport, non chi in qualche modo ha a che fare con lo certo, sport, Marino, degli atleti. Dicevo anche prima che è stato forte e bello il modo in cui lo sport ha reagito, perché tante volte di fronte a temi sociali, a temi politici eccetera, lo sport, ma non solo quello italiano, quello globale, aveva un po' infilato la testa sotto la sabbia. In questo caso, allora, posso esagerare con le citazioni? Io sto dando alle stampe il mio terzo libro per ragazzi, come sapete la storia di due squadre, di due scuole rivali che si affrontano, ci sono ragazzi di colore che giocano in queste squadre. Nel prossimo libro, senza spoilerare nulla, come dite voi giovani, tu, Leo e gli altri, accade che queste scuole si coalizzano e vanno a giocare in un'altra città. Qualcuno fischia un ragazzo di colore che è in una di questa squadra, gli altri ragazzi di colore, parliamo di bambini di 12 anni, lo prendono sotto braccio, lo portano verso la tribuna, indicano chi ha fischiato e gli dicono: se voi continuate questa partita non prosegue. Chiaramente è una metafora, chiaramente è una fiction, però io quel giorno lo sogno e lo aspetto. Magari ci arriviamo, perché magari ci arriviamo. Intanto arriveremo alla ripresa dei giochi, no? Con i piani A, B, C, D, E, F, alfabeto continuatelo voi. La vita sportiva sta per ricominciare, l'Inter di Conte e di Leo Turrini a lamentarsi per la collocazione delle partite, quindi tutto sta tornando normale. Beh, sai, quando si recupera, diciamo così, quello che era il tempo, la dimensione del passato, tornano fuori i discorsi, allora il calendario forse favorisce questo, la Juventus, l'Inter e il Milan non gradiscono di giocare la Coppa Italia subito perché poi c'è il campionato ipercompresso come conseguenza di quanto è capitato, e quindi ci sarà sicuramente qualcuno che dirà che certe soluzioni sono state prese per favorire A i danni di B, ma ricordatevi sempre che, come il cetriolo gigante di Guzzanti che imitava Tremonti, c'è nell'aria l'algoritmo che gira, l'algoritmo di Gravina che gira, non vi dico dove va a finire perché siamo in fascia protetta, ma io trovo, va bene, dai, abbiamo sofferto tanto tutti in queste settimane, in questi mesi, è anche bello che si possa tornare ad accapigliarsi per delle scemette. L'algoritmo di Gravina, ora ve lo spiegherà Marino Bartoletti, che scriverà il suo quarto libro sull'algoritmo di Gravina. Io non ho capito, Marino, ma tu sei molto più saggio di me, anche se siamo coetanei, ma in cosa consiste questo algoritmo? Che cos'è un logaritmo? Visto che io studiavo i logaritmi e qui si parla di algoritmi, potresti chiarirci in ragione dell'algoritmo? È pensabile che la Ferrari, che vi faccio notare è ancora imbattuta a gennaio, possa la Ferrari vincere il mondiale di Formula 1 tramite l'algoritmo? Ecco, la parola al mio maestro Marino Bartoletti. Guarda, io per motivi che mi sfuggono mi sono diplomato al liceo scientifico con 8 in matematica. E fu qualcosa di veramente arcano e confini col, credo, con la magia nera. Mi vanto di aver rimosso tutte le cose di cui mi hai parlato, mi ricordo soltanto la trigonometria perché c'erano il seno e il coseno. Qui andiamo su una materia molto cara a Ginta, Tu la devi smettere, perché tu la devi smettere, perché io vivo nella più puritana città del mondo, no? Una città in cui c'erano c'erano due ragazzini di due ventenni mascherati che si sono abbracciati in pubblico e gli hanno appioppato 400 euro di multa. Vedi un po' te dove vivo io. Io voglio dirvi una cosa, però, era un invito a farlo in privato. Mi fa piacere, ho capito. Sì. No, mi fa piacere che voi due entrambi siate così vispi, perché Marino torna, non si sa dove è stato, e parla, guarda caso, di seno e di coseno. A Tavuglia, sono stato a Tavuglia una volta per tutte. Ma guarda che non ti perdona tanto, è rimasto molto male, Leo, la tua assenza. Senta, non si capisce bene, ieri non siamo andati in onda perché stava preparando questo tour dalle sue amichette per tutte le regioni, e beati voi ragazzi che non avete avuto ancora la crisi ormonale, che io vi posso dire, io vi invidio molto. Vabbè, allora sai cosa faccio adesso? Mando il traffico e poi torno e ti deprimo un po' con discorsi di Formula 1, così impari. Sti due qua, mamma mia. Siete tutti convocati anche sui social. Anche sui social. Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Tutti convocati. A differenza di Marino Bartoletti, io non ho mai stato bravo in matematica, però se quindi non chiedetemi del logaritmo o dell'algoritmo, però se non ho sbagliato i conti, tra 32 giorni sarà Formula 1. Vedevo prima sugli schermi, tanto che era Leo Turrini, cioè quelli di Sky, il baffutissimo Chris Carey dire che la Formula 1 riparte, non si fermerà in caso di positività di uno più componenti di uno più team, ma ci sarà anche qui parola molto, molto di moda, un protocollo preciso, morale, si parte ragazzi. Leo, quindi la Ferrari non so se conserverà l'imbattibilità. Allora, guarda, chiaramente la Formula 1 si è dovuta adattare ai tempi di pandemia, per ora c'è un calendario di 8 gare, 4 delle quali saranno disputate su due circuiti, cioè ci sarà una doppietta in Austria e una doppietta in Inghilterra. È evidente che è una soluzione di emergenza, anche perché voler essere realisti, cioè, tra una domenica e l'altra corri nello stesso posto, davvero rischi di vedere delle corse identiche, un trionfo della noia e così via. Però è fondamentale ripartire. Adesso bisogna capire, queste settimane che mancano, il 5 luglio l'appuntamento appunto dello Spielberg, se e come i nostri amici a Maranello saranno in grado di correggere i difetti che la macchina prima del virus aveva mostrato nei test di Barcellona. A questo aggiungiamo una cosa, che Carletto, cioè Leclerc, è carico come uno schioppettone, vedete che parla di come si fa la carbonara, oppure veste d'Armani, o fa il film con le lusce, così via, no? Il problema è che anche qui c'è un altro, come l'algoritmo di Gravina, c'è un altro cetriolo gigante che gira nell'aria e vede già del box Ferrari d'Austria, e questo cetriolo si chiama Seb Vettel. Allora, io voglio sapere come farà Binotto, che noi chiamiamo Harry Potter, eccetera, con quella sua aria da maghetto e anche da pretino di campagna, a gestire questa situazione, perché si ricomincia con un separato in casa. E sicuramente bisognerà appellarsi al senso di professionalità di tutte le parti coinvolte, sì. Però è una cosa che non ha precedenti nella storia della Ferrari. No, certo, però cetriolo comune e mezzo gaudio, perché sono problemi che avranno anche gli altri, anche se forse meno serie, Marino. Io temo che sia una rara forma di cetriolo non verde ma argentato, per la verità. Detto che allo Spielberg noi forlivesi abbiamo già dato, perché hanno tagliato una gamba a Piero Maroncelli qualche decennio fa, io chiaramente vedo con molta diffidenza questo doppio Gran Premio nella stessa pista, perché effettivamente è vero, come secondo il Lodo Pardo, che io condivido, che da qualche parte bisogna cominciare, questa è una parte leggermente audace, mentre se veramente si corresse al Mugello io farei la Ola, perché è una pista che adoro, perché non ci sarebbe il problema, che c'è in realtà, di poter arrivare a questa pista, perché è inaccessibile da noi comuni mortali spettatori, ma se ci deve essere solo la gara, io credo che lì ci divertiremo e che sarebbe molto sparigliante. Guardi, io vidi riaprire il Mugello alle corse nel 1976 ed erano corse in moto. Poi, a proposito di Carletto, se vuoi dedichiamo anche un pensiero a Carletto Ubiali, che non c'è più. Fu un giorno triste per tanti motivi, perché persero la vita due ragazzi che io adoravo, Tordi e Buscherini, però fin da allora capimmo che quella era una pista dalle mille potenzialità, che nasceva stradale, la pista di Scarperia, e diventò qualcosa di talmente importante che Leo mi insegna che è diventata, come dire, il tempio dei festeggiamenti Ferrari tutti gli anni, anche quando non c'è qualcosa da festeggiare. Beh, lì devo dire, in una pista che nessuno conosce, perché io dubito che qualcuno dei piloti dell'attuale mondiale ci abbia mai corso, ci sarebbe quel recupero della verginità agonistica che a me mi intrigherebbe abbastanza, sì. Per non parlare delle due gare di Formula 1 in Italia. Sì, l'Italia è una gran fabbrica di motori, tra l'altro anche Misano sta spingendo per raddoppiare l'appuntamento di Misano, l'Emilia sta spingendo per raddoppiare l'appuntamento di Misano. Emilia per quanto... sarà lei. Ah, fa bravo, Emilia Romagna. Adesso abbiamo aperto le regioni, mi bacchetti subito in questo modo. Non è detto che ci sia stata la riapertura fra l'Emilia e la Romagna. dopo la matematica mi bocci anche in geografia. E vabbè, vi piacerebbe invece l'idea, Leo, ti piacerebbe invece correre al contrario? Da qualche parte è stato proposto. Allora guarda, io mi rendo conto quello che abbiamo raccontato prima, cioè abbiamo vissuto dei mesi terribili per la pandemia, quindi qualcuno si è anche bruciato il cervello, no? Perché immaginare di correre al contrario, dove ci sono le vie di fuga e quant'altro, no? L'ingresso dei box è una roba talmente senza senso che infatti poi è finita nel dimenticatoio, come spero l'algoritmo di Gravina, hai capito? Ecco, anche le corse al contrario sulle stesse piste erano un altro cetriolo che gira, però prima Marino me l'ha fatto capire, qua si ha detto, ma questo cetriolo non è verde ma argentato. Cioè, Lewis Hamilton, per tornare alla riflessione di partenza, è stato uno dei primi a far sentire la sua voce contro quello che sta succedendo in America, no? Sì. Insomma, Hamilton sarà assolutamente il favorito anche per questa stagione, perché per quello che avevamo capito prima del virus a Barcellona, la Mercedes ha ancora un vantaggio tecnologico. Poi ripeto, è un mondiale mai visto per tantissime ragioni, quindi senti, l'idea del Mugello, che ne pensi? Mugello, allora, Marino ha detto benissimo, il circuito naturale, fantastico, la Formula 1 non ci ha mai gareggiato, però è stato per anni quel tracciato, il teatro dei test Ferrari, all'epoca di Schumi e così via, quindi ci sono dei riferimenti per la Ferrari, per i team, diciamo, satelliti della Ferrari che potevano usufruire di quella pista. A me fa piacere l'idea, anche perché così evoco un personaggio amatissimo da Marino, non lo sa, non so ricorda quasi nessuno, ma il Mugello, Valentino Rossi, fece il suo ultimo test con le Ferrari di Formula 1. Era il periodo in cui ormai andiamo in dio di quasi 15 anni, accarezzava l'idea di, insomma, di passare dalle due alle quattro ruote, e girò anche lì e andò anche forte, tra parentesi. Quindi, insomma, guarda, sarebbe bello un Gran Premio di Formula 1 a Mugello con un giro fatto da Valentino Rossi sulla Ferrari prima della partenza della corsa vera, poi vinto dal Cetriolo Hamilton. Quindi vabbè, adesso, adesso addirittura Valentino Rossi sulla Ferrari. Conclusione, ma lasciami dire che Graziano Rossi, cioè la mia congiunta dell'altra settimana, ha corso a Misano in senso antiorario. Valentino Rossi ha corso e vinto a Misano in senso orario, ma quando le piste naturalmente erano, come dire, adattabili alle esigenze. Correre al contrario ovviamente sarebbe una specie di suicidio in tempi di sicurezza, quindi cassiamo l'argomento immediatamente. Immediatamente, senti, hai accennato prima appunto a un ricordo di, del primo Valentinide, no? Del, del motociclismo italiano, cioè Carletto Ubiani. Guarda, se è esistito Agostini è perché gli ha spianato la strada Carlo Ubiali, che è stato bergamasco. Il primo italiano a vincere 9 titoli mondiali, e altri ne avrebbe potuto vincere se non si fosse dovuto ritirare a 30 anni. Lui ha disputato tutti i primi mondiali, o quasi, si è battuto contro i più grandi piloti dell'epoca, non ha mai azzardato la grande cilindrata perché il fisico non glielo consentiva, ha corso le Milano-Taranto, addirittura una volta arrivò a spinta a Bari durante una tappa della Milano-Taranto. Ci riporta da una parte al romanticismo di un motociclismo che non c'è più stato, dall'altra comunque alla prima ventata di grande professionismo. È stato veramente uno dei più, due, tre più grandi campioni italiani di motociclismo di tutti i tempi. È triste che lo si ricordi soltanto nel giorno in cui ci lascia, però è bello che i giovani vadano a studiarsi che cosa ha rappresentato questo ragazzo che fumava 3 sigarette prima di partire in tutta la sua carriera, in tutta la sua vita. Beh, adesso però promettimi che non lasci più le Autorrini, perché sennò a quel punto altro che congiunti. Allora, mi sono arrivate notizie di forte nervosismo da parte Forte nervosismo. No, non solo nervosismo, io mi sono sentito sedotto e abbandonato. Cosa volete che vi dica? Tutta un'esperienza di vita condivisa con Marino. Tra l'altro Marino adesso è stato un signore, ma io, lui, Ubiali, andavo a cena nel 1951. C'era anche Tassi Nuvolari, fu un momento molto bello perché Marino a un certo punto disse: ma voi cosa credete che solamente dal Mantovano, dal Bergamasco possono nascere grandi stelle dei motori? Nascerà un giorno a Tavuglia uno che riscriverà la storia, no? Io gli dissi: Marino, ma appoggia quel fiasco, no? Perché certe volte non si esagerava un po' a tavola. E invece anche in quella circostanza il mio congiunto aveva ragione. Hai capito. Comunque lasciami dire per tua tranquillità che le 2 ore che sono stato con Graziano lui ha sempre tenuto la mascherina, quindi non abbiamo fatto nulla di impuro. Il nostro rapporto è salvo, congiunto mio. Questo lo scopriremo nelle prossime puntate e solo vivendo. Grazie davvero Marino Bartoletti, Leo Turrini, ovviamente a Valeria Bernardi, Gianmarco Ferronato in regia, Claudio Schiattone in redazione, Lorenzo Raspi in assistenza. Ci sentiamo domani tutti convocati alle 2. Minchia, è stato una montagna russa. Ci vediamo domani. Enjoy. Saluti.